Allora, per chi si è seduta e seduto, a questo punto gli altri, quando arrivano, arrivano. Iniziamo a introdurvi e a dirvi benvenute, benvenuti a Cabaret Extra Voltaire. Questa sera abbiamo deciso di ospitare lo spettacolo Desidera, che verrà letto e interpretato da Giulia Di Sacco. Applauso. Lapo Sintoni. Bravissimi. Francesca Macci e Diana Vettoia. Ottimo. Allora, lo diremo più volte, ma iniziamo già a ricordarvi che questo spettacolo, appunto questa sera, leggeremo degli estratti del testo, ma verrà invece presentato in scena al Teatro dei Filodrammatici a Milano dal 10 al 15 febbraio. E ci sono delle meravigliose locandine in cassa che vi permetteranno di avere uno sconto sull'acquisto dei biglietti usando il QR code Exalge. E quindi ringraziamo Exalge per averci ospitato questa sera e senza ulteriori indugi facciamo partire lo show. Ricordo anche che la puntata è in diretta su Radio Exalge e poi sarà riascoltabile sul nostro podcast, sempre sul sito della Radio Exalge. Quindi chiunque abbia amiche, amici, parenti che non sono qui ma vogliono ascoltare, ditegli di sintonizzarsi su Radio Exalge Cabaret Extra Voltaire. Woo! Episodio numero 8. 9. Grazie, grazie, grazie. Capitolo 1. I finestrini dell'appunto sono abbassati. Un fumo lento esce dal cofano della macchina. Le stelle immobili osservano una persona apparentemente addormentata. La musica che esce dall'altoparlante suona ancora ad alto volume. Una luce lontana che arriva dalla carreggiata opposta illumina la testa del guidatore, appoggiata all'airbag esploso. Un'altra macchina arriva, rallenta. Le sue quattro frecce rosse illuminano la strada buia. Esce una persona, fa qualche passo verso la punta dal cofano distrutto e si ferma. Fa velocemente una chiamata. Una donna, seduta sul sedile del passeggero, esce dalla macchina con le quattro frecce. Nonostante una strana nausea le avvolga lo stomaco, la donna si incammina verso la macchina semidistrutta. Si avvicina al finestrino del guidatore e... Si avvicina al finestrino del guidatore e vede i capelli... La donna esce dalla macchina con le quattro frecce, si avvicina alla punta distrutta e... La donna si avvicina al finestrino del guidatore, il finestrino si avvicina al finestrino e vede. La musica continua, il fumo continua, esce il, le stelle guardano, le luci rosse illuminano illuminano il suo... Non ci riesco. Scena 1. Un soggiorno. Alice sta scrivendo. Entra Emilia con dei sacchetti della spesa. Ha indosso le cuffie. Sta ascoltando qualcosa. Prima di parlare se le toglie. Ho fatto la spesa? Ah, grazie. Ti va bene se mangiamo qualcosa così al volo che devo correre fra poco? Sì, sì, certo. Pizzette? Grande. Tu che fai dopo? Scrivo. Ah, sì, sì. Un tempo. Alice continua a scrivere. Senti, io dopo rimango in giro e mi bevo una roba con Luisa. Vieni? Non credo. Non credi perché non ti va di venire o... Non posso, devo scrivere. Ok. Un tempo. Alice continua a scrivere. E come sta andando? Male. Vabbè, come sempre, no? Sì, ma questa volta è un po' diverso. Cioè? Non riesco a scrivere di questa cosa qui. Un tempo. Vabbè, non devi per forza scrivere di questa cosa qui, scrivi qualcos'altro. Tipo cosa? Non lo so, ci saranno tante cose per cui vale la pena scrivere, no? E ricomincio da capo. Amore, è appena iniziato. Sì, beh. Sorridono. Luisa? Cosa? Non sapevo ti vedessi con Luisa. Te l'ho appena detto. No, ma dico in generale. Ma poi lei lavora ancora alla galleria. Lo scopriremo insieme stasera. Ma poi non avevate litigato? Dai, vieni stasera. Ci provo. Dai. Davvero. Al ritorno ci prendiamo il kebab. Ma tiri fuori la carta del kebab. Dai, che non esci mai, è venerdì. Lo sai che per me che sia venerdì non cambia davvero niente. Venerdì, insomma, sabato, domenica, per me sono esattamente la stessa cosa. Ma in pratica sì. No. Sì? No. Sì. Va bene. Cosa? Vengo. Oh, finalmente! Dove ci troviamo? Al Craft, ti va bene? Ok, al Craft. E poi comunque Luisa è simpatica. A volte. Sorridono. Grazie. Scena 2. Una chat di incontri. Hai fatto match. Scrivi un messaggio a Caterina. Perché il pomodoro non riesce mai a dormire? Consegnato. Caterina sta scrivendo. Caterina sta scrivendo. Perché? Consegnato. Francesco sta scrivendo. Perché l'insalata russa. Consegnato. Caterina sta scrivendo. Wow. Quando piange un pero? Quando? Quando è disperato. Con questa ti sei proprio superato. Grazie. Sono le tue migliori? Dipende, ti sono piaciute? Per niente. Allora no. Caterina manda un emoji che ride. Beh dai, sempre meglio di chi ti scrive "Hai un volto molto espressivo". Perché c'è chi lo scrive? Già. Mi dispiace perché non ve lo meritate affatto. A Caterina piace il messaggio. Immagino quindi che ci sarà un sacco di gente che ti chieda cosa voglia dire declutterer. Esatto. E a te darà molto fastidio. Esatto. Allora io non te lo chiederò. Grazie. Andrò semplicemente a cercarlo su Google. A Caterina piace il messaggio. Oh, ti ringrazio. Piacere mio. Consegnato. Ah, ok, quindi praticamente tu aiuti le persone a buttare via le cose. Ah, grazie per aver riassunto il mio lavoro in questa frase, lo apprezzo molto. No, ma aspetta, ma guarda che è una ficata, eh. Sì, eh? Ah, assolutamente, dovrei assumerti io, dovresti vedere casa mia. Beh, un po' presto, no? Non intendevo mica quello. Ah, ok. Caterina manda l'emoji di un sorriso. Francesco manda l'emoji di un angioletto. E tu che cosa fai? Ti sto scrivendo. Puntini, puntini, puntini. Scusa. Vabbè, del resto sei quello che ha rotto il ghiaccio facendo delle battute sulla frutta. Te l'ho detto che non erano le mie migliori. Sarà. Faccio musica. Scrivo canzoni. Poi campo come posso. Ah, bello. Aspetta a dirlo, magari la mia musica ti fa schifo. Beh, se me la mandi te lo posso dire. Te la posso far sentire solo dal vivo, però. Ah, e perché? Perché sennò non hai la full experience. Cioè? Ti servo io in carne ed ossa. Vedrai. A Caterina piace il messaggio. Caterina sta scrivendo. Caterina sta scrivendo. Venerdì? Caterina sta scrivendo. Venerdì? Il Craft lo conosci? Certo. Allora venerdì al Craft alle 18:30? A Caterina piace il messaggio. Primo step. Luci abbaglianti e colorate. Musica. Applausi, urla di gioia. Entra un uomo, M. È vestito in maniera elegante, tuttavia, degli elementi del suo abbigliamento lo rendono quasi casual, come ad esempio delle sneaker bianche ai piedi. Si prende tutti i tempi di cui ha bisogno. Buonasera! Buonasera a tutti quanti, grazie mille di essere qui. Voi mi conoscete e sapete che a me piace andare dritto al punto. Un tempo. Perché? Nonostante tutti quanti i nostri sforzi, non riusciamo mai a raggiungere quello che vogliamo. Troviamo sempre qualcosa che si mette in mezzo fra noi e il nostro obiettivo. Che questo obiettivo sia avere la promozione che desideriamo, o avere il corpo dei nostri sogni, oppure semplicemente prendere la buona abitudine di leggere di più. Perché è così difficile restare sui binari che tracciamo per noi stessi? La fatica per alzarsi dal letto la mattina? Quel bicchiere di vino in più? O quelle patatine fritte alle quali proprio non riusciamo a rinunciare? E che vuoi che sia, no? Solo un bicchiere? Solo una patatina? Solo altri 5 minuti in più nel piumone? Ma lo sappiamo tutti quanti che quei 5 minuti poi diventano 10, poi 30, poi un'ora. E quel senso di colpa quando apriamo gli occhi e fissiamo il soffitto, quel senso di colpa... Ce l'avete presente, no? Quel senso di colpa è una doccia fredda. Perché non riesco a fare quello che voglio? Una pausa che vuole creare suspense. So che è difficile da ammettere, ma ciò che ci allontana dal nostro obiettivo siamo proprio noi stessi. Noi siamo il nostro peggior nemico. Il nemico che ci dice che non ce la faremo, che siamo delle schiappe, che non siamo capaci, che tanto vale restare a letto e dormire. È molto meglio restare immobili, fermi, non fare niente, piuttosto che provare a fare qualcosa e scoprire che siamo degli sfigati, no? Allora ditemi, che differenza c'è fra uno sfigato che non fa niente della sua vita e uno sfigato che almeno prova a non essere uno sfigato? Una leggera risata. Ve lo dico io? La paura. Diapositiva proiettata di una foto raffigurante un uomo triste, rannicchiato in un angolo. È una foto buia e molto ritoccata. Sembra più che altro che l'uomo stia per essere picchiato. Sotto la foto c'è scritto: la paura. Trovare gli anticorpi per sconfiggere il virus più antico del mondo. La paura è vecchia quanto il mondo, forse anche più del mondo. Noi iniziamo ad esserne consapevoli quando nostra madre ci lascia da soli alle casse del supermercato. Torna subito, ha solo dimenticato di prendere le uova. O quando cadiamo dalla bicicletta e nostro padre corre a vedere che cosa ci siamo fatti. E sul suo volto leggiamo tanta apprensione, tanta preoccupazione che diciamo: allora dovrei avere paura anche io. Ma niente ci ha mai fatto così tanta paura quanto il mostro sotto al letto. O nell'armadio, quando i nostri genitori dopo la buonanotte chiudevano la porta, spegnevano la luce. E nelle ombre della nostra stanzetta... noi eravamo sicuri che una figura inquietante ci stesse fissando in attesa che chiudessimo gli occhi per saltarci addosso. Poi cresciamo e quel mostro non lo vediamo più. O quasi, eh? Iniziamo ad avere paura di perderci. Paura di cadere. O delle altezze. Paura dei ragni o dei serpenti. Abbiamo paura di essere lasciati da soli, o di essere traditi, o di deludere qualcuno. Abbiamo paura di non essere abbastanza, di non essere all'altezza. E come animali impauriti davanti a qualcosa che ci terrorizza, noi restiamo immobili, in attesa che il nostro predatore si stanchi di noi e ci lasci in pace. Ma gli animali hanno anche un'altra reazione alla paura. Combattere. Scena 4. Una chat di incontri. Francesco sta scrivendo. Link alla canzone di Doja Cat. No, non ci credo. Te l'avevo detto. Ma come hai fatto a trovarla? Ma ho delle skill nascoste, ancora non l'hai capito. Sto imparando. Francesco sta scrivendo. Mi sono divertito molto ieri sera. Anch'io. A Francesco piace il messaggio. Ti va di replicare? Molto. Scena 3. Notte. Alice sta scrivendo. Scusa, ti ho svegliato? No, no. Un tempo. Alice continua a scrivere. Non riesci a dormire? No. Vuoi che ti faccia una camomilla? No, no. Grazie. Un tempo. Alice continua a scrivere. Melatonina? No, preferisco continuare, grazie. Ok. Un tempo. Alice continua a scrivere. Forse però è meglio se provi a dormire, no? Tanto non ci riesco. Beh, se continui a lavorare sicuramente non ci riesci. Lo sai che poi va a finire che fisso il soffitto per 5 ore e mi incazzo perché non riesco a dormire. Più mi incazzo perché non riesco a dormire, più non dormo, quindi... Sì, ma lo dovrai pur dormire, no? Ma io dormo. Quando? La notte. Beh, senza di me perché io non ti vedo dormire da diversi giorni. Forse perché stai dormendo. Dai. Sorridono. Un tempo. Amy. Cosa? Vai a dormire. E adesso non ci riesco. E quindi ti ho svegliato. Perché mi preoccupa, adesso sono preoccupata. Poi mi passa, stai tranquilla, poi dormo. Sì, ma sono 4 giorni che tu non dormi. Amy, io adesso davvero cosa ci posso fare? Potresti provare a prendere qualcosa. Ma sei tu che non riesci a dormire o sono io? Che senso? Mi devi dire cosa devo prendere perché io non riesco a dormire o posso fare quello che credo meglio per me. Sono soltanto preoccupata, Alice. Sì, l'ho capito. Un tempo lungo. Sono stanca, scusa. Lo so. Sono solo... molto stanca. Vedrai che andrà meglio. Andrà meglio? Amy, davvero. Devi solo dormire. Andrà meglio quando? Esattamente. Io non ho più 18 anni, sto invecchiando. Ma smettila che non è vero. Vabbè, lascia stare. Dai, andiamo a dormire. Scusa, ma adesso non ho tempo. Per cosa? Per dormire? Non ho tempo per perdere tempo. Che vuol dire? Sto perdendo tempo adesso a parlare con te del fatto che sto perdendo tempo. Con me, stai perdendo tempo con me adesso. Dai, che hai capito che no, intendo. Non ho capito. No. Devo finire il capitolo, domani mi alzo presto. No, lavoro anch'io, sai, mi alzo presto anch'io. Sì, lo so. Infatti, scusa. Vieni a dormire. Silenzio. Alice ha un sussulto. Vomita. Amore! Scusa. Stai bene? Scusa, il tappeto. Aspetta, aspetta. Emilia esce. Alice è immobile. Sta guardando il suo vomito. Comincia a piangere. Emilia rientra con dello Scottex ed asciuga la bocca di Alice. Scusa. Tranquilla. Scusami. Lo so, lo so. Non ci riesco, non ce la faccio. Va tutto bene. Io pensavo di farcela, ma non ci riesco. Va bene lo stesso. Sono stanca, mi dispiace. Va bene lo stesso. Scena 7. Messaggi vocali. Ore 12 e 21. Amore, senti, serve che passi a prendere qualcosa prima che torni a casa? Vado al supermercato, manca qualcosa? Nel caso, chiama che magari non sente i messaggi. Un bacio, ciao. Ore 12 e 35. Sai cosa? Magari prendo la carta igienica che mi sa che sta finendo. Se poi c'è qualcosa fammi sapere, se no niente. A dopo, ciao ciao. Ore 12:50. Oi, io sto tornando, metti sull'acqua per favore, grazie. Ore 13:02. Ma dove sei? Pensavo ci fossi a pranzo, quando torni? Ore 13:31. Kate, tutto ok? Dove sei? Ore 13:39. Ehi, Fra, scusa, non avevo sentito i messaggi. Bravo, che la carta igienica avevamo solo un rotolo, mi sa. Per il pranzo sì, scusami, io non t'ho avvisato, però non torno. Mi tieni qualcosa per la cena? Grazie, bacio. Ore 13:40. Sì, va bene, ti tengo l'avanzo per dopo. Ma tutto ok? Mangi da qualche parte? Ore 13:45. Sì, mangio da Gea che stavo da lei, mi ha invitata a pranzo. Così poi magari ne approfitto che dopo rimango in giro che devo comprarmi delle cose. Non... Dai, ti scrivo quando sto per tornare a casa. Ore 13:46. Ah, salutamela, è tanto che non la vedo. Va bene amore, un bacio, a più tardi. Caterina da sola. Prende il telefono e manda un messaggio vocale. Ciao mamma, senti, non preoccuparti, però quando è un attimo mi chiami, ho bisogno di capire su, cioè se mi aiuti a capire, cioè a decidere, oddio vabbè, senti mamma, tanto quando sarai arrivata a questo punto sarai già preoccupatissima, mi starai chiamando, quindi vabbè, ci sentiamo tra poco, ciao. Caterina sta aspettando, ogni tanto guarda il telefono, tiene a bada l'agitazione. Capitolo 5. Il legno sotto le sue mani è appiccicoso. Si chiede quando è stata l'ultima volta che l'hanno pulito. Solleva un dito e pensa che prima di mettersi le mani in faccia dovrà sicuramente lavarsele. Si volta. Sembra passata un'eternità, ma sono solo passati 2 minuti. Brani pop e indie si riproducono senza sosta, li conosce quasi tutti. La barista le sorride mentre passa tra un tavolo e l'altro. Crede che l'abbia presa in simpatia. O forse vuole solo crearsi una clientela affezionata e un sorriso è il minimo che possa fare per ottenerlo, ma comunque sia, le sorride. È sicura che quel sorriso le si sia piantato sulle labbra in maniera imbarazzante, uno dei suoi sorrisi a mezza bocca, tutti storti, che in foto sono sempre orribili. Abbassa lo sguardo, sperando che l'insieme gradevole della sua faccia abbia reso il tutto meno ridicolo. Guarda la birra che tiene nella mano destra. È a metà bicchiere. Sta bevendo con calma per far passare più velocemente il tempo, ma è già la terza. Sai disegnare? La barista è davanti a lei. Non si era accorta di niente. Scusa? Sai disegnare? Così. Niente di che, va bene anche una cosa così. La barista indica le insegne delle birre attaccate alla parete dietro di lei. Le scritte sono belle, colorate. Come direbbe sua madre, sono divertenti. Non così bene però, eh. Non ti preoccupare, è soltanto una scritta. Ti va? Sì, ok, sì, va bene. Si sorridono velocemente e la barista evapora. Alice guarda le insegne al muro. Le studia, pensa a cosa dovrà fare, cosa dovrà creare. L'avrà scritto lei e la barista questo se lo ricorderà. Mentre squadra le insegne per prendere ispirazione, si rende conto che la vista è un po' annebbiata. La gola è secca, allora dà un altro sorso di birra mentre continua a pensare a cosa potrà disegnare. Keller Beer, Germania, 5 gradi, 6 euro. Vuoi mettere una firma? Una firma? Sì, qualcosa tipo qua in basso, non lo so. Il tuo nome, un disegno, un simbolo, qualcosa. Keller Beer, Germania, 5 gradi, 6 euro. Alice. Alice? Tu? Emilia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Un breve estratto da questo spettacolo che vedrete intero con un sacco di scenografie e luci e costumi. E costumi. Non saremo nudi. Lo mettiamo. Dai, oppure sì, chi lo sa. Nessuno, Diana, se dice che non siamo nudi non viene nessuno. Vai. Vai. Io questo li giocherei subito a sto punto. Thank you. ce la passiamo, il microfono. Sì. No, no, no, cioè. Sì, tutti, tutti. Ma ci siamo là. Non è che è più comodo, perché da là, là, perché più basso. Il mio... Sì, sì. Lauri, Lauri, non facciamo passare troppo, se no l'abbiamo. Ok, rieccoci qui. Allora, grazie della performance. Quindi abbiamo assaggiato un po' di estratti di dai, questo testo Desidera. Desidera. Esatto. C'è un motivo? No, no, io mi siedo qua, guarda così. Allora, partiamo da Giulia, che si è già seduta. Giulia, che è l'autrice del testo, nonché regista insieme a Lapo, giusto? E interprete insieme a tutte e tutti gli altri. No, dicevo di partire da Giulia forse perché ci presentasse un po' appunto la nascita di questo testo e un po' anche magari le motivazioni che ti hanno spinta a parlare di questi temi. Intanto ciao a tutti e a tutte. Allora, com'è nato Desidera? Anche perché si chiama Desidera? Perché si chiama De-Sidera. Perché qui non ho una risposta, penso, particolarmente illuminante o stupefacente. No, perché quando studiavo per cercare un po' il significato, diciamo, dietro alle parole, quindi dietro al desiderio, comunque al tema che volevo e volevamo approfondire del desiderio, delle aspettative, appunto di tutto quello che parla dello spettacolo, mi piace anche andare a, diciamo, a studiare un po' proprio l'etimologia delle parole per scoprire se magari dietro queste trovo qualcosa di che mi può ispirare poi successivamente nella scrittura. E Desidera prende dalla... Ora, se c'è qualcuno che ha studiato latino e greco mi uccideranno, però sta sostanzialmente dentro l'idea di fissare le stelle, guardare le stelle, o comunque di affidarsi in un certo senso alla lettura delle stelle, quindi stelle inteso che è anche una cosa che tornerà spesso all'interno del testo, sia di stelle in un certo senso astrale, quindi e anche di disegno di qualcosa di più grande, sia anche le stelle, quindi di immaginarsi. Ognuno di noi, penso, si immagini nella propria vita, nella migliore delle ipotesi, come una stella nascente o comunque qualcosa che diventerà qualcosa di grande, quindi un po' dietro a questa cosa qua. E quindi mi sono affezionata a questa cosa qua. Ok, grazie. E io rispetto, adesso ho un po' di paura di spoilerare cose nelle domande che faccio, quindi In realtà... cioè io ho letto il testo e poi abbiamo visto vari personaggi, no? Due coppie, Alice e Emilia, dall'altra parte c'erano Caterina e Francesco, sì. E poi questo motivatore che abbiamo visto, mm-hmm. che ci sprona a volere di più da noi, no? Sì, sì. Quindi mi chiedo quanto un po' questo desiderio a volte in questo testo viene quasi messo in discussione, perché sembra quasi che oggi siamo portati a dover per forza, cioè c'è questa ansia, cioè cosa dobbiamo desiderare, non sappiamo più, e quindi mi chiedevo se questo desidera fosse anche un po' un incitarci a smetterla di dover per forza desiderare qualcosa, non lo so. Sì, sì, sì. Quindi smetti di desiderare, perché sembra quasi che se non desideri nulla allora sei un assolutamente fallito. Sì. Quindi è molto questo, cioè sconsiglio anche di andare a vedere lo spettacolo, perché poi dopo tutti i personaggi che abbiamo visto si sviluppano e scopriamo anche un po' quali sono i momenti in cui appunto c'è un po' un momento di crisi per ognuno di loro. Sì, no? Sì, sia crisi personale rispetto appunto alle aspettative, ai desideri di ognuno, appunto, sia anche come questo desiderio, diciamo, singolare, personale, poi si rifletta nei rapporti con gli altri, con le altre persone, e in particolare con, in questo caso, le coppie, quindi sono due coppie, e di come possa anche mettere in crisi molto spesso questa necessità che io, almeno io parlo per me, che sento nella mia vita costantemente, di dover arrivare, di dover desiderare, di doverlo volere veramente tanto, e che niente basta mai davvero. E questa cosa, il rischio è che si rifletta anche nei rapporti con le persone che amiamo e a cui vogliamo bene, in modo da, appunto, che in un certo senso non c'è spazio per altro se non che noi stessi e quello che noi ci aspettiamo dalla nostra vita. Non so se ho risposto. E mi chiedo, quando scrivi questo testo, se ti è mai capitato di sentire anche un po' un blocco in riferimento anche al testo, no? Sì, cioè, che è diventato poi un... Di brutto. Penso che le scene di Alice che non riesce a scrivere siano molto... Si sono scritte da sé. Esatto, esatto. Sì, sì, tantissimo. E ho iniziato a... noi siamo partiti da un po' un brainstorming di quello che come compagnia volevamo... Compagnia Radice Ibrida. Volevamo... TM. Volevamo... di cui sentivamo la necessità di voler parlare, di voler raccontare un tema su cui volevamo un po' confrontarci. E quindi... quando abbiamo capito che volevamo parlare di questo, dal mio punto di vista ho portato, diciamo, sul tavolo la difficoltà proprio del momento che stavo vivendo nella mia vita, a livello artistico, o comunque di confrontarmi con la vita di teatrante, attrice, autrice, tutto quello che c'è. E quindi ho molto preso proprio dalla frustrazione che stavo vivendo e che vivo tuttora, spoiler, ma che vivevo nella mia vita, e in un certo senso mi piace pensare che comunque da quella frustrazione sia comunque nato qualcosa, l'idea che comunque c'è una trasformazione sempre, anche del blocco. Quindi sì, puoi scrivere, spesso è un inferno, chi scrive un po' lo sa, quindi sì. Perché tornando indietro, noi qua a Cabaret Extra invitiamo molte autrici e ognuna di loro ha un suo modo, no, di scrivere. Quindi adesso che parlavi del fatto che hai portato il tema, cioè com'è che è nato? Nel senso, tu hai scritto il testo e l'hai portato, oppure avevi un'idea, l'hai condivisa, e come la tua scrittura esce fuori nei lavori che fate, visto che siete una compagnia, da quello... Inizio io, poi magari passo, perché sono curiosa anch'io di sapere il loro punto di vista. Esatto. Appunto, siamo partiti da, appunto, un brainstorming, e tendenzialmente finora, come abbiamo lavorato... Ci confrontiamo, parliamo, buttiamo e prendiamo appunti su di tutto, a volte veramente prendiamo appunti lunghissimi su un sacco di temi diversi, e poi io vado lì, attingo da questi mega appunti e inizio a scrivere, quindi per ora il mio processo è solitario, molto solitario, scrivo da sola nella mia cameretta, però in questo caso in Desidera, come spesso succede, magari abbiamo partecipato magari a qualche bando, quindi abbiamo avuto modo di mettere alla prova qualche scena prima di arrivare poi alla scrittura in toto. E quello chiaramente è stato sia un modo per rimettere mano a quello che avevo pensato, a quello che avevamo pensato e fatto, e quindi man mano che continuavamo ad andare avanti a creare qualche scena nuova, poi io ci rimettevo mano, però diciamo che un po' il processo è stato questo, però principalmente sì, solitario. Mi viene da dire che mi sono ricordata che in realtà noi al principio abbiamo fatto questa cosa delle interviste ai genitori, ti ricordi? Verissimo, sì, è vero. Cioè che in realtà inizialmente c'era anche forse un po' un'altra idea di come si voleva strutturare un po' la cosa, e quindi era qualcosa tipo di intergenerazionale. E quindi è stato pure divertente perché Giulia ci ha stilato una serie di domande da porre ai nostri genitori separatamente. Stranissimo anche porti davanti a tua madre, a tuo padre, separate, e fa delle domande super dirette, super emozionanti. I miei genitori sono messi a piangere, cioè anch'io, cioè è stato proprio, ho scoperto un sacco di cose anche. Anch'io ho scoperto delle cose che non mi avevano mai detto. Esatto. Anche io delle cose. Se gli fai le domande dritte, dirette, te rispondono. Ma tipo che domanda? Ma ad esempio era proprio tipo... Ho rivisto il file recentemente, fra l'altro. Ho rivisto Madonna. Beh, c'era una ad esempio che era una cosa che è venuta fuori, era tipo chi ha voluto i figli prima? E una cosa che faceva caso era, a me mi ha fatto caso, è che nella maggior parte dei casi per noi erano sempre i padri che volevano i figli, tipo, o come ti ricordi il parto, che ne so, oppure o anche delle domande tipo tu hai fatto realmente nella tua vita quello che volevi fare? Cioè nel senso rispetto alle aspettative, esatto, sì, anche roba del genere, mi hai voluto davvero o sono stata per sbaglio? Quanto di diciamo delle aspettative che uno aveva quando era piccolo, comunque giustamente quando aveva la nostra età, quando era giovane, piccolo, sai, i sogni che uno ha, che dice speriamo che si realizzino, poi come dire, quanto è arrivato, quanto non è arrivato, quanto si è perso, perché poi giustamente i compromessi ti portano a fare delle scelte. Sì, anche io mi ricordo questa cosa. Non mi ricordo se c'era pure una domanda del tipo se non mi ricordo, tipo se il tuo matrimonio, la tua realizzazione poi di coppia ti ha impedito di realizzarti personalmente. La famiglia proprio, la creazione della famiglia ti ha impedito di realizzarti. Di realizzarti come individuo in base a quelle che erano le tue aspirazioni, mi sembra che lavorative, fosse una cosa del genere, insomma delle cose leggere da chiedere ai genitori. Ma perché posso fare una piccola digressione, perché in realtà noi abbiamo fatto già altri due testi prima di questo, che sono Figli, che è stato il primo, e poi Giochi notturni, che sono stati poi il motivo per cui abbiamo deciso di fondare la compagnia, di portarci avanti, perché abbiamo cominciato a lavorare insieme, ci siamo trovati bene, e all'inizio era un po', avevamo quasi un'idea di fare una specie di trittico, poi l'abbiamo abbandonata dopo un po' perché abbiamo visto che la direzione è stata completamente un'altra, perché i figli parlava un po' del rapporto tra fratelli e in relazione ai genitori, poi il rapporto appunto di fratelli che sono cresciuti. E quindi abbiamo detto proviamo a fare visto che siamo in un'età in cui comunque incominciamo ad affacciarci sul concetto di avere una famiglia, di crearci noi stessi un nucleo familiare, dei figli, ho detto proviamo a vedere come la viviamo noi adesso in questo periodo storico e come la vivevano loro ai tempi. Quindi abbiamo stilato questa serie di domande lunghissime, alcune anche molto romantiche, tipo ma che cos'è per te, l'amore, mi ricordo queste cose qua. Mi ricordo che a un certo punto mia madre incominciò a rispondere e poi fece io a questa domanda non risponderò. Adesso non mi ricordo quale fosse precisamente, però poi abbiamo avuto delle ore di registrazione così, e poi abbiamo buttato tutto, no non è vero, abbiamo buttato tutto, però no. Però è stato interessante il fatto che è stata anche la cosa apprezzabile, secondo me anche la forza di questo testo, che si è allontanato dagli altri due, volendo, cioè volontariamente o involontariamente, e quindi abbiamo lasciato diciamo da parte questa questione di fare tre spettacoli con questo fil rouge che li lega, e siamo andati completamente da un'altra, in un'altra direzione, completamente, abbiamo preso un'altra piega, un'altra direzione, e credo che sia poi anche la forza del testo, siamo andati a approfondire altri temi, a ricercare altre cose, insomma. Ma rispetto a come la vivete voi, cioè nel senso che mi sembra appunto chiaro che un po' il filo rosso, comunque il tema, sia appunto quanto ci sia un conflitto tra quello che effettivamente desideriamo e quello che sentiamo che dovremmo desiderare o comunque che dovremmo essere, e questo può essere una pressione, no, che viene da più fronti, che siano culturali, familiari, amicali, sociali. E infatti diciamo che anche gli stessi personaggi un po' rappresentano come degli stati di stati d'animo, no? Quindi che possono essere più grintosi, più invece già sconfitti, quindi la sensazione anche che per quanto il desiderio da una parte sia una cosa bella, nel senso che è una cosa che ci prona a seguire qualcosa che effettivamente vogliamo, allo stesso tempo può anche dimostrarsi al contrario una cosa che ci fa vivere quel senso di fallimento che penso che sia anche nella società di oggi molto poco, no? Cioè non abbiamo molto strumenti per affrontare questa cosa, tanto che porta ad abbatterci, a sentirci sbagliati e per cui per la mia personale esperienza penso che ci sia molto più la paura a governarci che non il senso di desiderio, di buttarsi, di provare, che per esempio rispetto anche al discorso che dicevi tu, l'apo generazionale, se penso ai miei genitori o comunque alle generazioni dei nostri genitori, paradossalmente penso che avessero più un senso di buttarsi o comunque di, e invece che viviamo in una società oggi in cui siamo terrorizzati da fare qualsiasi cosa, prendere qualsiasi responsabilità, fare un passo di qualsiasi genere, e non, cioè non la, nel senso non ne faccio ovviamente una colpa, ma penso che veramente ci sia una tematica sul fatto che non abbiamo degli strumenti che ci permettano di affrontare le nostre paure e il senso di fallimento. Quindi tutto sto preambolo per chiedere in realtà a voi, anche nell'ottica di pensare che impatto vorreste avere con Desidera, quindi magari se avete pensato un po' anche a cosa vorreste suscitare nel pubblico rispetto un po' a queste tematiche. Chiedo un po' a tutti. No, beh, nel senso, no, mi veniva in mente più che altro mentre dicevi questa cosa, no, che parlavi della paura. Allora, penso di poter dire che, cioè, vorremmo parlare di cose che pensiamo possano effettivamente toccare delle persone che magari hanno vissuto queste cose, che quindi si sentono chiamati in causa perché quello che raccontiamo le riguarda in maniera diretta o in maniera, diciamo così, traversa, no? E quello che pensavo mentre dicevi abbiamo paura, probabilmente la nostra generazione più di quella dei nostri genitori, a buttarci, no? Soprattutto, non lo so, pensavo mentre parlavi in ambito magari professionale, no? Una realizzazione che forse all'epoca dei nostri genitori, mi sento di dire forse in maniera semplicistica, siccome avevano una maggiore possibilità di realizzarsi da un punto di vista lavorativo, poi diciamo l'aspirazione era più sulla famiglia, no? Adesso c'è questa, non lo so, io personalmente parlo per me, la sento per me, quest'ansia magari di questa paura di volersi realizzare, anche perché, e la paura secondo me nasce da questo, c'è una tendenza, la società ti chiede di identificarti in quella cosa lì, tu sei quella cosa lì, cioè io mi sono resa conto che ogni volta che io conosco una persona nuova, io non, esatto, ricevo sempre la domanda, ah, che cosa fai? Cioè nessuno, giustamente, ma anch'io, ah, tu cosa fai, no? Come se quello servisse a inquadrarti, a identificarti e però anche un po' a sintetizzarti, ma giustamente ripeto, anch'io sono la prima che se incontra qualcuno ha la tendenza di dire, ah, tu di cosa ti occupi? Cioè non mi verrebbe mai di che hobby c'hai, per dirti, no? A domenica al parco, che fai? Voglio rompere questo schema e quindi ho iniziato a chiedere alle persone quando le incontro cosa ti piace fare, invece di chiedere che lavoro fai. Sì. Però davvero, perché è vero, cioè sono d'accordissimo. A me secondo piace me la paura in banca. Sì, no? Adoro contare. Sì. No, nel senso che comunque secondo me la paura nasce dal fatto, cioè la paura di fare un passo nasce dal fatto che se da quel passo dipende tutta la mia persona, perché è quello che il mondo leggerà di me, e sembra che tutto debba risolversi in quello. È chiaro che è molto più problematico e spaventoso fare quel passo, cioè io mi sento su di me molto poco abituata a percepirmi con mille sfaccettature, anche se so di averle, però a un certo punto devi dire chi sei e cosa fai nel mondo e perché stai là e se l'hai ottenuto entro i 30, capito? Spoiler, no, però... Però ecco, secondo me la paura nasce un po' da questo, non so poi gli altri. Sì, secondo me è dovuto, penso, immagino, al fatto che giustamente adesso ci sono molte, cioè richiesta molta più professionalizzazione, molta più specificità proprio di skill nel lavoro. Prima, nel senso, i miei genitori non sono laureati, hanno fatto lavori che comunque gli hanno permesso di fare tutto quanto le volevano a livello di proprio di economico, o di figli, di intraprendere, diciamo, di fare degli investimenti concreti, anche magari con la sana incoscienza di dire lo faccio, andiamo, poi vediamo, cioè si fa sempre in tempo a recuperare. Noi viviamo sempre, viviamo in una società, secondo me, che appunto richiede così tante cose, talmente tante premesse, che poi giustamente uno dice, se non ho queste cose, come faccio a presentarmi, a essere competitivo? E infatti poi l'ansia da prestazione è quello che viviamo, che vogliamo raccontare noi nello spettacolo, il fatto di dover continuamente dimostrare qualcosa a qualcuno e a noi stessi, e questo poi ci determina, cioè ci castra un pochettino nel senso di libertà, almeno questo lo vivo io personalmente, di dire appunto non ho quella sana incoscienza e mi butto e si fa sempre in tempo. E infatti io vivo nell'incertezza. In realtà proprio la scelta che abbiamo fatto è esattamente quella, cioè un'incoscienza che scegliamo ogni giorno. Sì, proprio un'irresponsabilità. Però posso scusare, però ecco pure sta cosa, cioè noi ogni volta che ci sono delle... sentire di essere dei privilegiati, perché da una parte abbiamo potuto dedicarci a una cosa in cui... che ci piace. C'è la passione anche, come se fosse il privilegio, quindi un po' devi chiedere scusa, capito? Perché stai a fare il giochino. Invece, cioè, no, non so se... cioè, non so se mi spiego, ma non perché... Però è questo, come se dedicarsi ad una cosa che sia anche... cioè, che presupponga anche una passione, sia il privilegio, capito? Quindi fuori... il privilegio nel senso... cioè dovrebbe essere la regola in teoria, no? Guardare quello che tu vorresti fare e dedicarti facendo anche il passo nel vuoto. In realtà, siccome è difficile, sono pochi chiaramente quelli che ce la fanno e che possono, magari vai verso delle scelte un pochino più stabili, tra virgolette, che anche quelle sono piene di sacrifici, non sto dicendo quello, assolutamente. Però poi si perde la naturalezza di dire io questa cosa l'ho fatta per passione o l'ho fatta perché effettivamente avevo necessità di sicurezza, no? Di sentirmi... Penso anche comunque te scegli di fare l'attore, di buttiamoci, viva la vita, però campi di precarietà, quindi insomma, cioè nel senso mi butto, però c'è i suoi pro e i suoi contro, secondo me. E comunque per chiudere... poi dall'altra parte, se scegli la cosa stabile non va bene perché non hai avuto il coraggio di buttarti a seguire, cioè c'è sempre comunque un senso di colpa di fondo che non è mai abbastanza. E non va, ma va bene anche se stai bloccato e scegli una cosa che ti fa stare tranquillo, se è quello che desideri. Il problema è che dobbiamo desiderare chissà cosa. Cioè. Sì, esatto, è che, cioè, non è che c'è una scelta giusta. Questa è un po' la sbagliamo questione. Sempre. Esatto, cioè, no, nel senso uno fa, esatto, è sempre un po' ogni tanto va bene, ogni tanto va male. Ma... no, infatti forse c'è anche un po' il tema nel testo, poi perché l'ho letto, quindi magari è un semi-spoiler, spero di no. No, però vai. Diciamo, mi sembra che ci sia anche un po' il tema di chiedersi il senso di colpa di non desiderare, cioè nel senso di, no, forse effettivamente trovare un equilibrio cercando di fare ciò che ci piace nei limiti della possibilità in tutti i sensi, quindi lavoro, relazioni, eccetera eccetera, però non so se Freud qui interverrebbe contro l'intervento, chiedersi se è realmente possibile, e quindi nel senso che c'è sempre stata un po' questa idea, credo anche nel tipo di terapia freudiana, lacaniana, eccetera, di credere che in realtà è impossibile non desiderare, o anzi il cruccio dell'essere umano è che tu continui a desiderare delle cose, nel momento in cui le raggiungi c'è un nuovo desiderio, sì, e quindi è come un'infelicità continua, no? Cioè siamo, sì, condannati a questo ciclo di inseguimento, e quindi forse un po' chiedersi se sia possibile realmente avere un equilibrio in questo senso. E non so, per esempio anche quello che dici tu sul lavoro, in un campo creativo che comunque anche io e Martina facciamo, magari anche imparare a dirsi che va bene fare dei lavori che magari non so, in cui crediamo relativamente, se però ci permettono di avere uno stile di vita per cui possiamo poi fare delle cose anche gratuitamente, o comunque senza viverla come una, diciamo, in un'ottica di produttività o di guadagno, ma semplicemente di produzione di cultura, di cose belle, ed è un privilegio, mi rendo conto, come anche un sacrificio, perché comunque però esatto, sì sì, no no, ma e quindi penso, però quante cioè, perché io capisco il tuo ragionamento e mi dico, è vero, sicuramente io, parlo per me, sono sicuramente anche privilegiata di potermi permettere di fare questo, allo stesso tempo per me il sacrificio è stato ricostruire il mio modo di intendere e di pensare la mia esistenza, e quindi anche in questo senso di in cosa io mi sento realizzata, per cui anche a livello culturale, cioè forse la problematica sta un po' lì, no? Cioè come uscire da quella pressione, appunto, da quell'idea che per sentirti realizzata devi saper rispondere a qualcuno che ti chiede che lavoro fai, il medico, non lo so, un qualcosa, sì, sì, che gli permette, cioè, perché un'altra cosa che noto è che più sei strano o strana nella risposta, più sei difficile da inquadrare, e quindi questa cosa desta, diciamo, squilibrio nelle persone che ti incontrano, per cui non sei facilmente categorizzabile, e quindi in una società che tra l'altro, anzi, va molto verso la categorizzazione, siamo tutti specializzatissimi in sto cazzo, non lo so, e invece non abbiamo più la capacità di essere più creativi, di immaginare, di essere qualcosa di ibrido, non so, fai un colloquio di lavoro, se non hai la specializzazione di non so che, non va bene, anzi più sei strana o strano peggio è, e è difficilissimo forse ricostruire un modo di pensare in cui l'obiettivo non è la produttività o il guadagno, ma non so, veramente riuscire ad avere una capacità di ascolto, di capire dove si sta bene, cioè forse un po' questo, e penso che si rifletta poi in realtà anche nell'altra tematica che viene fuori dall'altra coppia, che sono le relazioni. Sì. Va bene, mi fermo. Sì, sì. Vado io. No, appunto, perché concordo con tutto quello che è stato detto. Perché poi, appunto, l'altro tema, le relazioni, la coppia, la famiglia, non necessariamente famiglia, io spesso magari dico famiglia intendendo un nucleo che può essere di due, di tre, quello che volete. E di come spesso questa, appunto, questa nostra frustrazione, questo doverci inquadrare, come abbiamo intuito magari in qualche strato che avete visto stasera, ma poi si capirà molto meglio, di come questo appunto ci accechi molto spesso e ci renda appunto molto soli, perché l'unica cosa che in un certo senso, quello che penso io, che ci viene autorizzato di fare è quello di pensare a noi stessi, al nostro futuro e a dove dobbiamo arrivare, ma c'è poca, come la vivo io, c'è poca considerazione degli altri veramente, o delle persone che ti stanno intorno, e questa cosa, per questo anche riprendendo un po' la domanda su cosa mi piacerebbe che potesse trasmettere lo spettacolo, oltre all'idea di sperare che possa parlare un po' a tutti, a tutte, è anche, non c'è una risposta, non ho una risposta, però all'idea di pensare che magari la cura, che è una parola che mi piace molto, la cura fra di noi che è quello che in un certo senso ci rende meno soli in questo, ora dire una cosa un po', ci rende soli in questo viaggio, diciamo, verso il capire cosa siamo, chi siamo, perché facciamo quello che facciamo. Il viaggio nella frustrazione è lo stare insieme agli altri, che sembra una cosa un po' così, però ci credo molto in realtà. Concordo. Sì, sì, anch'io. No, pensavo anche, no, ai personaggi che poi alla fine, quando vivono i loro drammi, sono, cioè, alla fine inquinano anche un po' le loro relazioni, oppure non ne parlano, quando invece poi condividi, a parte che scopri che tutti i personaggi, nonostante affrontino quest'ansia in modo diverso, reagiscono in modo diverso, tutti vivono la stessa cosa, no? E quindi anche leggendo questo testo mi sono rivista io, mi è venuto voglia di farlo leggere ad amici che magari reagiscono diversamente da me, però quella cosa lì la proviamo tutti, quindi chi se ne frega di quello che fai, e basta. Vabbè, comunque, volevo sapere se c'era qualcuno dal pubblico che aveva qualche domanda, osservazione o anche nulla. Fun perché facts. Ci piace anche rompere un po' la parete, ma... Vai. Vai. No, invece più legata alla scrittura del testo, quindi... Come è cambiata, diciamo, se anche a livello di scrittura nel corso del tempo, visto che appunto è un testo che ha già un po' di anni, come si è evoluto? Come sì, è cambiato? Sì. O come magari immagini cambierà? Immaginate, sì, sì. Già adesso che appunto noi lo mettiamo in scena, abbiamo messo in scena in vari modi, come dicevo prima, fra anteprime, studi, quindi ormai è un testo che maciniamo a livello di parole da tanto tempo, e l'ho rivisto stampato in una versione, cioè e mi sono accorta di come già noi l'abbiamo fatto nostro e l'abbiamo cambiato, quindi già quello è molto evidente. E di quante poi riscritture ho fatto, non lo so, 5, 6, è cambiato nel momento in cui scrivevo, ha avuto una gestazione lunga, ho tagliato una quantità mostruosa di cose, all'inizio volevo che quasi fosse solo un libro, che appunto ci sono degli estratti che sono dei capitoli di un libro che poi... capiremo un po', senza fare spoiler, capiremo un po' dove va a parare, però è cambiato veramente tanto. Adesso penso che sia, in realtà io quando rimetto mano alle cose che scrivo le ricambierei 3000 volte, quindi mi sono imposta di fermarmi in un certo senso, perché sennò potrei andare avanti all'infinito. Però sì. Non so se... Fa molto ridere, perché adesso che l'abbiamo ripreso leggendolo, era da un botto che non lo rileggevamo, eravamo, ma che è davvero c'è sta battuta, questo è così, ah qua sorridono, pensa te, cioè, quindi sì. Se posso aggiungere solo poi una cosa, secondo me la forza di questo testo, al di là del fatto che quando abbiamo fatto le varie, siamo anteprime o cose di prove studio aperte, tante persone sono venute a farci complimenti perché si sono sentite toccate per una dinamica. Tante persone. Qualcuno è venuto. Qualcuno è venuto. No, sono venuti a dire a me. Mi sono sentito toccato per questo passaggio qui, per come questo personaggio tratta questo argomento. Secondo me la forza di questo testo, in cui Giulia è stata estremamente brava, è stato il fatto che... è molto realistico, cioè i dialoghi sono estremamente quotidiani, ma in senso positivo, nel senso che sono cose che potrei dire, potremmo dire, o ci è capitato magari di dire, sono dinamiche che abbiamo vissuto, cioè sono attuali, secondo me sono è estremamente attuale come testo. E secondo me non potrebbe essere, adesso la sparo grossa, ma sono molto serio, nel senso non potrebbe essere, non potrebbe che essere che così, nel senso non potrebbe essere scritto che in questo modo qua, perché si vede che è onesto, si sente che è sentito, che è lavorato, pieno di pianto, cioè molto, è un testo turbato, possiamo dire. Sì. Però è in senso positivo, cioè poi il, quando verrete a vederlo, perché verrete a vederlo, ci direte se sì, se no. Però secondo me, cioè nel senso, può non piacere, può piacere, può non piacere. Sicuramente venite a vederlo per scoprirlo. Sì, sì, esatto. Sì. Però sicuramente no, certo, lo dico, sicuramente è realistico, cioè secondo me è proprio una cosa, non è ampolloso. Sì, esatto. sì, non è ampolloso, non è finto. Questa è una cosa in questa Grazie, là, veramente bravo, collega. Prego, collega. Quindi vai. No, che invece è più legata a Radice Ibrida, che mi interessava capire se appunto a livello di gruppo teatrale vi inquadrate in una sorta di stile, o come dire, come potreste definire, se doveste raccontare la vostra compagnia e come vi approcciate al teatro e che cos'è il teatro per voi, come, cosa rispondereste? Ce lo chiediamo spesso. Possiamo dire ce lo stiamo ancora chiedendo, nel senso, buono, per ora testi originali sicuramente, non abbiamo mai pensato di prendere qualcosa che fosse già stato scritto. Non c'è. Una volta abbiamo avuto forse una discussione riguardo, ma che, come ci definiamo così, in realtà non, per ora non ci stiamo trovando, non ci stiamo dando una risposta, direi anche per fortuna, nel senso che parlando di identità prima, no? No, scherzo, sì, però sì. Il rapporto col teatro, cioè come vi sentite voi nel fare teatro, cioè sia nello scrittura che nella recitazione. Ma dici individualmente o come gruppo? Entrambe. Sì. Sì. Vai, no, vabbè. No, allora, mi viene da dire, poi assolutamente aggiungi, vai. Era per dire che noi effettivamente veniamo anche dalla stessa formazione, dalla stessa classe, e mi viene da dire che abbiamo anche una grammatica comune nel modo di lavorare, ci piace magari partire da quello che è il conflitto in scena, da una serie di cose che noi sì, dal testo chiaramente, andandolo un po' a mettere subito in relazione, cioè sì, come dire, cioè, penso singolarmente lo studio sul personaggio, e questo ok, però vengono fuori le relazioni, mm-hmm. i conflitti, e quindi mi viene a dire che siamo molto allineati nel modo di lavorare. Sì, come... sì, come gruppo ormai ci conosciamo molto bene, ci sappiamo leggere fin troppo bene. Come, diciamo, più identità, appunto, finora, cioè a me piace dire finora, poi non si sa il nostro futuro, ma ci piace, perché magari Diana, Francesca o Lapo scriveranno un testo domani e lo metteremo in scena, però magari. È l'idea che di scrivere e di fare qualcosa di nostro e che racconti, alla fine racconti il nostro presente, quello che penso che ci interessi sia raccontare qualsiasi cosa che però risuoni quantomeno per noi e nella migliore delle ipotesi per gli altri, che per me da autrice è la cosa più bella quando parlo con le persone che magari vengono a vedere i nostri spettacoli, anche solo proprio sentire che qualcosa è risuonato, quindi per me, quindi diciamo l'identità di quello che facciamo è raccontare il nostro presente e quello che ci sembra utile, sì. Di cui parlare, insomma. Sì, non so se... Sì, è... siamo molto legati al testo comunque, cioè quello, siamo molto scarni, anche il resto molto... le parole! Esatto. Ma io ho una domanda, l'ultima domanda, la regia è vostra, no? Comunque... me e Lapo, sì. Ok, adesso lo state provando, immagino, al Teatro di Filodrammatici, giusto? Abbiamo fatto un periodo di residenza ai Filodrammatici su palco, sì, quindi abbiamo scenografia, luce e tutto il resto, e adesso stiamo rifacendo un periodo di prova invece a Campo Teatrale, che ci ha ospitato in residenza, quindi prima del debutto, sì. No, mi interessava sapere se c'era stato anche un occhio esterno che aveva cambiato delle carte in tavola nella vostra, perché mi chiedo com'è autodirigersi poi, soprattutto quando, se il testo è tuo, no? E vabbè, poi ovviamente vostro comunque, perché l'avete visto nascere, quindi quanto può essere utile in realtà ogni tanto buttare di fronte a qualcun altro che, o quanto magari no, non so. Non è stato per niente facile, anche perché era la prima volta che lo facevamo io e l'app di dividerci. Soprattutto che eravamo sia dentro che fuori, questo, esatto, è stato il grosso, la grossa sfida. Da una parte, in maniera molto, molto brutale, nel momento in cui io sono in scena con Diana, Lapo è il regista e decide lui, quindi proprio ci splittiamo, ci dividiamo in quel senso lì. E poi nel momento in cui abbiamo dovuto prendere delle decisioni stilistiche, creative, scenografiche, tutto quello che è confrontarci con i collaboratori, chiaramente c'era sempre un dialogo continuo fra me e lui, e spesso chiaramente la discussione è raddoppia di tempo e di fatica, spesso però arricchisce poi tantissimo, perché condividere la fatica insieme è stata fondamentale. E cioè un occhio esterno ufficiale, diciamo così, ci sono state tante persone che nel corso degli anni l'hanno visto appunto in formati diversi, e ci hanno aiutato molto da spettatori più che altro. Chiaramente i nostri collaboratori ci hanno aiutato a restituirci qualcosa, però sì, principalmente abbiamo lavorato in questo modo, sempre tenendo ovviamente aperto il dialogo. Quanto compagnia abbiamo sempre dialogato continuamente in prova e nelle decisioni in realtà collettive. Come dire, ci teniamo che le cose che creiamo siano accettate da tutti e da tutte, quasi all'unanimità. Quasi all'unanimità. Quasi sempre all'unanimità. Sì. Diciamo, di base ci teniamo, cioè, poi spesso e volentieri accettiamo i suggerimenti, sempre e volentieri, e li proviamo sempre, questa è la cosa, diciamo. Non cerchiamo mai come registi di imporci dicendo no, si fa così, perché è inutile fissarsi, non bisogna innamorarsi delle cose. Provi, cioè la scena vince sempre, quindi la provi, se piace, funziona e te la tieni. Un sacco di volte mi è capitato che loro facessero delle proposte, io non ero tanto convinto, le facevano e dicevo, c'avete ragione, è giusto, teniamola. Ma è anche il bello. Quindi siamo sempre aperti a scoprire nuove cose. Ok, quindi direi che non ci resta che andare a vedere lo spettacolo dal 10 al 15 febbraio al Teatro dei Filodrammatici. In cassa ci sono dei volantini con un QR code con delle riduzioni per chiunque è venuto stasera. Chiunque la prende. Ve li siete guadagnati, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie. Il prossimo episodio di Cabaret Extra Voltaire sarà il 9 di febbraio al Bar Leila, con Romanzo di un'anamnesi di Sara Parziani, e poi in Exalge con questo è quello? No, sì, questo è il ciclo di Aisling Lenti. Data 28 febbraio, cioè il 28, sì. Se cadiamo, vabbè, la data la trovate sul calendario. Grazie ancora. Grazie a tutti. Qua c'è Vivian, la nostra costumista. Un applauso. E Lorenzo Basili, che è fotografo. Il nostro fotografo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie ragazzi.